Avete presente la vocina che vi parla nella testa? Che non è una voce estranea, no no, è proprio la vostra. È come se foste sempre in due, uno che fa e uno che dice, uno che ci prova e l'altro che giudica. E non è proprio semplice da gestire. Anche perché, come dice mia nonna, il giudizio è nemico dell'azione. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Si fanno sempre per lo stesso motivo. Poi qualcuno l'ammette e qualcuno no. Ma quando si fa un corso di teatro, lo si fa sempre per diventare un attore. C'è chi si giustifica dicendo che gli serve per il lavoro, perché durante il giorno si trova spesso a parlare in pubblico, perché vuole correggere la dizione, oppure perché gli serve per trovare il modo per attirare l'attenzione su di sé, per non annoiare chi ascolta. Invece c'è chi dice che ne ha bisogno per fare una ricerca personale, perché dopo anni di analisi vuole fare un altro tipo di ricerca. C'è chi sostiene che sia un modo per misurarsi con grandi autori, oppure per velocizzare la mente attraverso l'improvvisazione. E poi c'è chi dice che lo fa solo per divertirsi e riempirsi un po' le serate invece che stare davanti alla TV. Non credete a nessuna di queste scuse. Quando si fa un corso di teatro, lo si fa sempre per diventare un attore. Poi uno fa l'impiegato, l'altro fa l'agricoltore, il pubblicitario, fa il falegname. Però in fondo, quando uno decide di iscriversi ad un laboratorio, se uno sceglie di trovarsi davanti ad una persona che fa o che ha fatto l'attore, una persona che gli insegna delle cose per stare su un palco e paga una quota per farlo, beh, quello ci vuole quantomeno provare. È un modo soft per mettersi alla prova. È un investimento a basso rischio, perché tanto uno la sua vita ce l'ha, no? Il suo lavoro, la sua casa, le sue sicurezze pure, e quindi costa poco. Se invece quelle certezze ancora non ce l'ha, meglio. Quel piccolo, minuscolo, insignificante corso di teatro, chi lo sa, può sempre essere un'ottima occasione per crearsele. Ci sono corsi di teatro per tutti i gusti. Il corso d'attore classico, quello di teatro metodo Stanislavski, metodo Grotowski o Strasberg. Il corso di dizione, di recitazione, il corso di doppiaggio, di mimo, quello di clown. Il corso di scenografia, quello di tecnico audio, di tecnico video, di regia. Il corso da giocoliere e poi tantissimi laboratori. È un modo per mettersi alla prova, dice qualcuno, ma è soprattutto un modo per mettersi in mostra. Ve lo dice uno che all'età di 18 anni si è iscritto ad una scuola intensiva e quotidiana che è durata 3 anni. Se anche voi l'avete fatto, o meglio state facendo, un corso di teatro di qualsiasi tipo si tratti, io sono qui. E il numero è sempre quello lì, è sempre quello lì, quindi è 349-238-6666 per mandare gli sms, oppure 800-24-0024 per telefonare in diretta. Mi piacerebbe, se c'è qualcuno che sta facendo un corso di teatro e per accedere a quel corso di teatro ha dovuto fare anche solo un micro provino, anche se era finto, vale lo stesso, oppure per lavorare a quello che sta lavorando in questo corso ha preparato un piccolo pezzo, un monologo, una poesia, quello che è, mi piacerebbe che lo facesse al telefono. 800-24-0024, non si vince niente, non è una gara, non è amici, nemici, non è niente di tutto questo. È solo un modo per parlare di un passatempo, oppure chi lo sa. Ci sono un sacco di scuole, ci sono tra l'altro con dei nomi spesso divertenti. Per esempio mi ha scritto, dov'è? Eccolo qua. Nicola mi dice: faccio parte de La Credenza, siamo un piccolo gruppo di teatro scolastico che va avanti da 10 anni. Cosa vuol dire scolastico? Che lo fanno nelle scuole forse, o per le scuole. Ogni anno portiamo in scena uno spettacolo, non siamo molto seguiti, e qui subito cala un po' di malinconia. L'anno scorso, per invitare la gente a venirci a vedere, abbiamo tappezzato la scuola di post-it, che mi sembra un'ottima idea. Risultato: meno di 200 persone. Ma come meno di 200 persone? Quasi 200 persone, ma sono un sacco di persone, 200 persone che si muovono per venire a teatro, Nicola. Anche se i numeri non sono dalla nostra parte, niente, Nicola è depressivo, non ce la può fare. Questo corso di teatro rimane la cosa più bella per me. PS, proprio il mio insegnante di teatro mi ha suggerito il tuo programma, complimenti. Perfetto, quindi sicuramente è un gruppo di grande valore. Massimo: ho iniziato un corso di teatro su suggerimento di una mia amica. Non mi interessava poi molto il teatro. L'idea era più quella di broccolare un po' al corso. Strano, ma non l'avrei detto, Massimo. Dopo un paio di mesi la mia amica si è stancata e si è ritirata. Io invece ho continuato, mi sono appassionato a questa forma di espressione. Dopo un paio d'anni il regista mi ha chiesto di entrare nella compagnia. Ora sono felice di aver interpretato, eccetera, eccetera, eccetera. E poi sì, vabbè, questo teatro si broccola pure un po'. 800240024. Ci sono, tra le varie scuole di teatro, tra quelle diciamo professionali o prestigiose e le altre, nomi magnifici. Guardate, mi sono tirato giù un piccolo elenco da in un ordine assolutamente casuale, ad esempio Accademia Nazionale Silvio D'Amico di Roma, la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, Scuola del Teatro Sabbie di Genova, quella di Torino, il CTA, il CTB, l'Accademia dei Filodrammatici, Campo Teatrale, Dedalo Teatro, Teatri Possibili, Accademia del Tempo Libero, Teatro Primo Studio, Actor Studio Milano, Actor Studio Roma, Scuola Internazionale di Teatro, quelli di Grok, 800240024, 349-238-6666, qualsiasi scuola voi stiate facendo, qualsiasi corso state facendo, anche se è un laboratorio, se avete voglia di raccontarmelo, io oggi vi racconto com'è andata quando tempo fa tutto è iniziato, proprio perché in questo periodo sono in una fase di boh, chi lo sa. Avete presente la fase, boh, chi lo sa? Ecco, più o meno quella lì. Poi Tiziano Bonini ha voluto a tutti i costi che io riprendessi in mano il primo primo testo, chiamiamolo così, che io portai ad una il secondo che io portai a un provino dove chiaramente non fui preso. Ve lo leggo più tardi, vi dico solo che è una poesia futurista di Aldo Palazzeschi che si chiama La Fontana Malata. 800240024, come è andata all'inizio? È andata così. Perché alla fine tutti hanno fatto un corso di teatro. Ok, magari non proprio tutti, però un sacco di persone, molto di più di quanti voi vi immaginiate, altrimenti non si spiegherebbe, no, tutto questo fiorire di corsi, corsetti, laboratori, laboratorietti di dizione, di recitazione, di mimo, di improvvisazione teatrale, parlare in pubblico, esprimersi con il corpo, con la danza. Il mio primo corso di teatro l'ho fatto a 17 anni, ero in quarta liceo. Mi sono iscritto al corso di teatro al liceo perché mi piaceva Eva, una ragazza che lo frequentava. Al provino portai una poesia di Ungaretti, che era l'unica che al momento avevo a memoria. Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, o si sta come sugli alberi le foglie d'autunno, comunque vabbè, il succo è quello. Mi presero, però presero tutti. La ragazza che teneva il corso era tutto quello che i miei genitori intendevano per una sorta di disadattata. Abiti lunghi e trasandati, figlio nato fuori dal matrimonio e soprattutto professione ambigua. Animatrice di feste per bambini e teatrante di strada. Lei spesso aveva improvvise e immotivate crisi di riso o di pianto. Viaggiava con un camper. Il primo esercizio che ci fece fare a scuola fu la simulazione della nave. Vi spiego, allora la cosa era che ci trovavamo su un battello. Ognuno di noi recitava un personaggio. Dovevamo essere il personaggio sin dall'ingresso nella palestra, dove si teneva il corso. Io mi sentii totalmente fuori luogo sin da subito. Da quando mi avvicinai a Emilia Fiaschetti, quella della terza D, e le chiesi dove ci dovevamo cambiare. E sentii lei che mi rispondeva con accento francese e mi diceva: ma scusi, lei chi è? Come si permette di dare del tuo ad una contessa? Ecco, avrei dovuto capirlo allora. Sarebbe bastato ascoltare quello smarrimento per capire che non sarei mai stato da solo in quell'esperienza. Ci sarebbe sempre stato un compagno d'avventura a fianco a me. Un individuo cinico, dissacratore e becero. Lo stesso che al cinema ti dice: ma cosa fai? Piangi? Ma va che è solo un film. Era già lì quell'altro io, quello che alla finta contessa avrebbe risposto: ma cosa dici? Ma ripigliati, non sei una nobildonna francese, sei Emilia Fiaschetti della terza D, è vestita così, sei pure un cesso. Mica sono orbo, pagami un soldo. Mica sono orbo, pagami un soldo. Pagami un soldo. Pagami un soldo. Pagami un soldo. Pagami un soldo. Avrei dovuto farlo parlare quella volta. Perché era già chiaro che c'era un'altra persona che commentava tutto quello che mi succedeva. Era un altro Matteo, che non riusciva a starsene zitto e mi parlava nella testa. Avrei dovuto farlo parlare, oppure metterlo a tacere, farci una specie di patto. Un patto di non belligeranza. Guarda, facciamo così. Io so che ci sei e che sei un materialone. So che non crederai mai a nulla di tutto quello che vedrai su un palco, al cinema, e che piglierai sempre in giro chiunque si prenda troppo sul serio. Va bene, fallo pure, ma non tirarmi in mezzo per piacere, eh? Io voglio essere convinto di quello che faccio. Ci sentiamo quando anch'io smetterò di crederci. Ecco, non feci né l'una né l'altra cosa. Come al solito scelsi la via più comoda. Feci finta di niente. Mi misi la giacca e i pantaloni da ricomodo d'affari e mi infilai il sigaro in bocca. L'unico rammarico era che volevo fare anch'io l'accento francese, però a quel punto sarebbe parsa una copia della scema della terza D, e quindi optai per l'accento bresciano, che comunque mi viene sempre bene. Tra conti, principesse, ricconi e nobili di ogni genere, tutte le categorie più facoltose erano coperte. Non c'era nessuno che facesse tipo un marinaio, un inserviente, anche solo un barista. Era chiaro qual era l'immaginario che ognuno di noi voleva, a cui ognuno di noi aspirava. Era chiaro che sperava di raggiungerlo facendo l'attore. Era chiaro che nessuno aveva capito niente. Il corso durò tutto l'anno. Dopo 6 mesi di prove mettemmo in scena Romeo e Giulietta. Strano, no? Romeo era Alberto, il più bravo. Giulietta era Davide, il secondo più bravo. La sera della prima il teatro della parrocchia era pieno. Chiaramente fu uno di quegli inevitabili successi che giusto l'affetto di amici e parenti non può far altro che tributare ai propri cari che sono sul palco. La mia parte era quella dello speziale. Lo speziale è quello che vende il veleno a Romeo, che vuole suicidarsi. Io imitavo un venditore televisivo di pentole che urlava come un dannato, in bresciano ovviamente. Fu molto apprezzato in particolar modo dal preside del liceo, che per il resto del semestre, ogni volta che mi incontrava per i corridoi, mi diceva: «Ehi Caccia, com'è che era? Tira sulla cornetta, lo speziale ti aspetta, buona!» Nella mia famiglia si cominciò a cercare il parente da cui io avessi preso tutta quella vena artistica. Concordarono tutti sul nonno Antonio, talmente simpatico e spigliato da avere ballato sui tavoli del circolo del paese la sera che aveva alzato un po' troppo il gomito. Io personalmente ero astemio e non particolarmente spigliato, ma per loro il mio destino era segnato. Gerry Scotti doveva cominciare a tremare. L'unica vena di saggezza la manteneva la sorella di mia nonna, la zia Rosa, che ripeteva cocciutamente che il teatro non serviva a niente. A me qualcosa era servito. Alla fine mi ero fidanzato con Eva. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ecco, quella è stata la prima volta che l'ho sentita. Avete presente la vocina che vi parla nella testa? Che non è una voce estranea, è proprio la vostra. Non è tipo la vocina di Magnum PI, quella che gli dava consigli su cosa fare e cosa non fare. No, questa è proprio la vostra voce. È la parte più cinica, quella più pragmatica. Quella parte di voi che non viene fuori, ma che vi parla. E vi dice esattamente come stanno le cose per voi. E a volte è buono avercela, altre volte invece non lo è. Non lo è per niente. Perché non ci si sente mai da soli, si è sempre in due. Sei sempre uno che fa e uno che dice, uno che ci prova e l'altro che giudica. E se le cose stanno così, non è per niente semplice. Perché, come dice mia nonna, il giudizio non è amico dell'azione. 800240024 349-238-6666. Ciao Matteo, la fase di boh chi lo sa ricorre spesso nella vita, mi scrivono. Una 62enne che a 35 anni ha fatto un corso di teatro e di dizione. Ero la più vecchia, ma mi sono divertito un sacco. Poi mi sono sposata e ho smesso, peccato. Forse ricominciare? Boh, chissà, mi scrivo. Perché no? Ho appena realizzato che il tipo becero e cinico è diventato me anni fa. È il vero Francesco, quello non così stronzo, è solo la voce fuori campo. No, probabilmente l'ha scritto male lui o ho letto male io. Lezioni di piano di solfeggio da 0 a 42 anni, frustrazione totale. PS, per non parlare dei casting per Reclame e il milionario. Credo che sia... se è quello che ho capito, è esattamente quello che temevo. Mi sono iscritto ad un corso di teatro per andare in Africa. Cosa vuol dire mi sono iscritto? Mi sono bloccato un attimo. Non solo ci sono andata, ma ci ho vissuto per 5 anni. Ho vissuto di teatro per alcuni anni. La più bella esperienza, più azzeccata, scelta della mia vita. Marta di Milano. Che fai adesso, Marta, visto dopo essere stata in Africa e aver fatto corsi di teatro? Prima però mi è arrivato un messaggio che mi diceva esattamente così. Mi diceva: ho iniziato un corso di teatro su suggerimento di un'amica. Non mi interessava poi molto il teatro, ma l'idea era quella di broccolare un po' al corso. E allora ho detto, questo mi sembra il caso di sentirlo. Pronto, Marco? Sì, ma ciao Matteo, sono Marco. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Senti, ti disturbo? Dove sei? Sei al lavoro? No, tranquillo, sono a casa. Ok. Comunque il messaggio non era il mio. No, infatti mi sono sbagliato. Guarda, ho visto adesso, quello prima era di Massimo, il tuo è quello che mi ha scritto che una mattina ti sei alzato a 37 anni e hai deciso faccio un corso di teatro. Ed è stato veramente così. Una mattina mi alzo e dico sì. la mia vocina che c'è dentro dice vado a fare il corso di teatro. Ok. Vabbè, è stato anche un mezzo suggerimento da parte della mia compagna, perché al tempo volevo fare un corso di lettura espressiva. Sì. Ma perché alla fin fine non fai qualcosa in più? Fai un salto. Tu, scusa Marco, scusami, tu che cosa fai nella vita? Ma guarda, io in questo momento sono alla ricerca di una nuova occupazione, okay, perché l'azienda è andata male, io sono un gestore del personale, anzi preferisco definirmi un responsabile umano di risorse. Ok, quanti anni hai Marco? 37. Ok, insomma quindi sei andato a fare questo corso di teatro? Sì, un laboratorio teatrale che è iniziato a ottobre e che porteremo avanti fino a giugno e poi l'anno prossimo si ricomincia con un nuovo corso e altre nuove esperienze. Senti, quanti siete? Siamo una ventina, super giù, tra gente del primo anno, come sto scritto, e gente ripetente, fra virgolette, che l'hanno fatto gli anni scorsi, rimaste entusiastiche, adesso lo ripropongono. Senti, mi dici una cosa, un esercizio che avete fatto, qualcosa che ti ha un po', diciamo, azionato quella vocina nella tua testa che diceva, ma forse un po' mi imbarazza fare questa cosa qua, ti è mai capitato? Ma all'inizio, fondamentalmente, quando si fa un po' di ortoepia, quindi... Di che cosa, scusami? Di ortoepia, che traduco per i non teatranti, sì, è una fase di esercizio che si fa all'inizio per scaldare la voce, che si divide in respirazione e vocalizzazione. Con respirazione intendo dire respiri lunghi, ho capito. Lenta, vocalizzazione, parolette buttate lì, tipo babu bu bebi, mamu mimimi, mamma okay, mamma, cose del genere. Senti Marco, visto che poi devo lanciare la borsa, tu mi hai scritto che lanciare la borsa, devo mandare la borsa, mi hai scritto che avevi preparato dei monologhi, tra gli altri quello di Shylock, che è un monologo del Mercante di Venezia, di Shakespeare, te ne ricordi due battute con cui mi lasci e poi ti saluto? Sì, perché quelle cose sono le classiche cose che ti rimangono dentro sempre, le fai mesi fa, poi adesso te lo ricordi, chiaro. Vai. Ma sempre maltrattato come un cane, m'ha fatto perdere 500.000, ha riso le mie perdite, ha sghignazzato sopra i miei guadagni, ha offeso e oltraggiato la mia razza, m'ha sempre ostacolato negli affari, m'ha raffreddato tutte le amicizie e m'ha scagliato contro i miei nemici. Marco. E ciò perché? Perché sono un ebreo. Eccetera. Marco, grazie mille, sei stato magnifico. Sì, io ti faccio un in bocca al lupo per tutto, per il teatro, per il lavoro. Grazie, buona giornata. Ciao Marco. A questo punto, visto che l'ho chiesto a Marco, lo faccio anch'io. Vi leggo la prima parte, ce l'ho a memoria, ma facciamo finta di no. La prima parte della seconda poesia che ho portato al secondo provino della mia vita, che è La Fontana Malata di Aldo Palazzeschi, che fa. Se mi togli la base, però poi mi imbarazzo ancora di più. E fa così. Clof, clop, cloc, cloffete, cloppete, clockt. È giù nel cortile la povera fontana malata. Che spasimo sentirla tossire. Tossisce, tossisce, un poco si tace, di nuovo tossisce. Ma povera fontana, al male che hai, il cuore mi preme. Si tace, non getta più nulla, si tace. Guarda, basta, mi imbarazza troppo. 80024, 0024, la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo su una nave, più probabilmente su un traghetto direi. Si vedono giusto i contorni, si vedono credo quelle che sono le salupe di salvataggio. Hanno scritto in inglese, quindi potremmo essere in Inghilterra, però non vale. Credo che tutte le salupe di salvataggio abbiano anche scritte in inglese. Ma la cosa che si vede, o meglio che non si vede, è la costa. È tutto grigio e c'è parecchia nebbia. Si intravede appena appena, credo, quello che è un porto. Quindi forse è un traghetto che sta arrivando o che sta partendo. Ciao, sono Claudio Giulio Turbino, infermiere, 46 anni. Di ritorno alla mia Dover. Non ho un luogo, ma tanti. E posti per l'anima in ogni paese. E la risa sotto la pelle. Io sono qui. Grazie a Giulio, la sua foto è, o meglio, la foto di oggi è sul sito radio24.it, la pagina Io sono qui. Qualcuno mi scrive, io con la mia vocina faccio pugni da 20 anni. Poi il giudizio è nemico dell'azione, ma fare è il nemico del pensare. Andiamo però invece a sentire subito un'ascoltatrice che fa teatro e ci conta ancora. Pronto Daniela? Sì, pronto. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Raccontami la tua storia. Tu hai 56 anni, mi dicono. Sì, 56 anni. Mi sono laureata in storia del teatro, ma ho lavorato 30 anni in banca, che considero un po' una prova, per accedere al teatro, perché quando uno fa il gestore, insomma... Che cosa facevi esattamente in banca? È il gestore personal, quindi mi occupavo di investimenti. Ok, cioè, appunto, per uno che non lavora in banca, è una persona che si occupa degli investimenti. Tu adesso sei in pensione? sono in esodo, praticamente quello che chiamano prepensionamento, ecco. Quindi stipendiato, non lavoro, stipendiato in parte, ma non lavoro per i prossimi 5 anni, poi vado in pensione. E in parte quanto più o meno? Quant'è la percentuale? Il 70%. E si chiama esodo questa cosa? Si chiama esodo, sì, lo applicano parecchi istituti di credito. Chiaramente qui ci vorrebbe Barisoni, però farà dopo lui, dopo ci penserà lui all'esodo più tardi. Per me è stata una botta di fortuna, così ho cominciato a fare corso di teatro. Cioè, tu appena certo, vai pure, dillo. Maurizio Messana, che è una potenza, è meraviglioso, è stupendo. Senti, Daniela, quindi tu appena sei rimasta in esodo, si dice così? Sì, in esodo, sì. Da quando sei in esodo, tu, come l'ebreo errante, tu ti spari il tuo corso di teatro ogni quante volte a settimana? Ah beh, una volta alla settimana, e sto facendo anche dizione, sto cercando di migliorare il mio spazzoso accento piemontese, e poi faccio però un'altra cosa, ho contattato una signora su internet e stiamo mettendo su uno spettacolo tratto dal povero Piero del Campanile, che viene denominato diversamente perché tratto da, non è certo, proprio autentico, certo, una certo. parte variata. E così, diciamo così. E così si aggira anche la SIAE, Daniela, alla fine, no? Contratto no, da... No, li pagheremo. Senti, Daniela, ne abbiamo già parlato anche di questo corso. Toglimi, sì, toglimi una curiosità. Sì, sì. Tu che cosa ti aspetti da un corso di teatro e da questa nuova, diciamo, avventura che fai da quando sei in esodo? Bah, intanto vabbè, per ora mi diverto molto, so che poi procedendo non sarà poi più così divertente perché è chiaro che diventa più impegnativo, no? Mm. Comunque una vita vivere vite diverse. Okay. Ecco. Dimmi qual è l'ultimo personaggio che hai provato o che hai fatto? Al corso di teatro abbiamo fatto un pezzo di Pirandello, mi sembra, sì. Sì. Che è tratto da? Mina, adesso non mi ricordo, aspetta. Sei personaggi in cerca d'autore. In cerca d'autore. Dove è quella, questo è muro. Quella che è molto, che lui vuole scoprire anche i suoi pensieri, le sta talmente sul collo che proprio vuole sapere tutto di lei, anche i suoi pensieri. Daniela. È stanca, non ne può più. Daniela, ti faccio i migliori in bocca al lupo. Grazie, buona giornata. Buon proseguimento, bella trasmissione. Ciao, ti ringrazio, ciao, grazie mille. Ciao. Poi mi ha scritto Pietro oggi che mi dice: arrivato in quarta ginnasio con una sola e microscopica esperienza teatrale alle spalle, con riluttanza mi sono iscritto al corso della nuova scuola, spinto soprattutto da una prof di ginnastica che evidentemente mi considerava un istrione. Pronto, Pietro? Sì, pronto. Eccomi. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, grazie. Pietro, quanti anni hai tu? 24. E quindi fai l'università? Faccio l'università. Che cosa studi? Storia contemporanea. Senti, però tu hai tirato su una compagnia teatrale che si chiama? La Paglietta, anche se non siamo un gruppo di teatrale, di teatro dialettale, però è un vecchio aneddoto dei tempi del liceo e l'abbiamo chiamata così. Di dove sei, Pietro? Verona. Sei di Verona. Senti, raccontami che cosa fate nella vostra compagnia, in quanti siete, che spettacoli mettete in piedi? Allora, noi siamo nati nel 2006, perché sì. Ogni anno che finiva il corso di teatro del liceo c'era chi diceva sarebbe bello continuare, poi non continuava mai. Quando sono uscito io ho chiamato una ventina di amici allora e in otto siamo riusciti a tirare su questa compagnia. Adesso siamo in 11, siamo al nostro quarto spettacolo. Dimmi qual è l'ultimo spettacolo che avete fatto, Pietro. Allora, l'ultimo si chiamava Tutti passano dalla baronessa ed è noi riadattiamo, almeno per ora, testi decisamente vecchi per cercare anche di non pagare i diritti. Senti, Pietro, tu fai tutto, quindi fai riduzione, regia, noi dramma... facciamo tutto. Tutti l'unico insieme. Aiuto che abbiamo esterno è del nostro regista professionista del liceo che ci segue un po' per quanto riguarda l'allestimento, per il resto facciamo tutto. Quest'anno stiamo cercando di scrivere noi un nuovo spettacolo. Pietro, ti ringrazio e ti faccio un tanto in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Andiamo a Torino da Maria Grazia, un'altra donna. Pronto, Maria Grazia? Eccomi qui. Ciao, come stai? Matteo. Bene, bene, grazie. Senti, tu fai teatro amatoriale? Dialettale. Dialettale, sì. Però. Sì, dialettale perché mi viene molto bene, no? I dialetti mi vengono bene. Tutti i dialetti o solo il piemontese? Oh, non so, anche un po' bolognese, insomma... Il bresciano come ti viene? Io sono nata qui e quindi... Come ti viene il bresciano, Maria Grazia? Il bresciano, vuota? Va bene, senti Maria Grazia, poi ti devo salutare. Mi dicono che tu hai un pezzo in piemontese. Sì, L'avevo preso da Rai 2 che faceva Fiorello, e Boccelli aveva, io lo stavo registrando perché mi interessava quello che diceva, e ha detto questa cosa che mi è piaciuta da morire. Vai Maria Grazia. Il piemontese rende molto, forse l'hai già sentito. No? Non lo so. Posso? Vai, vai Maria Grazia, tutto orecchie. Sì. Allora, era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dalla fionda di un maschietto, andò per riparare dall'offesa sulla finestra aperta di una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessare la gente. Bene. Mentre in ginocchio alcuni e altri fedeli dicevano fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese a spalto e se lo mise. Maria Grazia, io starei tutto il giorno qui a ascoltarti, però veloce. Lo so, però c'è un altro ascoltatore in linea. Senti, dimmi quando fai il tuo prossimo spettacolo, se ne fai. No, ma io lo faccio così, di casa in casa, tra amici, così. Ma guarda che era troppo bello. Lo era, però volevo sentire anche Fabio, altrimenti poi ne sento troppo pochi. Maria Grazia, buona giornata. Grazie Matteo. Ciao, grazie a te. Pronto Fabio? Pronto? Ciao Fabio, sono qui. Ciao. Tu ci sei? Sono Fabio. Bravissimo. Fabio Pordenone e io sono qui. Bravissimo. Senti, tu hai portato il monologo delle Iene usando il metodo Stanislavski, giusto? Sì, esatto, il metodo Stanislavski. Senti, dimmi qual è il monologo e fammene un pezzettino. Beh, sono un po' raffreddato adesso. Fa niente, dai, ci passeremo sopra, Fabio. Allora, è stato un po' modificato il monologo, nel senso che io sono modificatore. Un criminale psicopatico. Ah. Beh, aspetta, non nella vita, mi auguro, nel monologo. Nel monologo. Vai, ho capito, probabilmente mi hai capito qual è il personaggio. Vai, Fabio. Sospiro. Allora, io non ti voglio prendere per il culo, ok? Ok. A me non me ne frega un ben amato cazzo di quello che sai, di quello che non sai. Bene, Fabio, io ringrazio Fabio che intanto sta continuando il suo monologo, purtroppo però dobbiamo veramente chiudere e poi temo che diventasse un po' troppo rock and roll, direi, per questa fascia oraria. Vorrei chiudere invece ringraziando tutti quelli che hanno partecipato con una mail che mi è arrivata che mi ha stupito non tanto per il contenuto quanto per chi l'ha scritta. Caro Matteo, sono un frate cappuccino. Tutti i pomeriggi scendo dal convento sulle colline del Righi di Genova e mi reco all'ospedale pediatrico Gaslini, dove sono cappellano. Prima di immergermi nelle sofferenze di quei piccoli malati e dei loro familiari, siccome scendo proprio verso le 4 del pomeriggio, attraversando la città mi ascolto le tue storie, sempre molto cariche di umanità. Purtroppo ti ascolto solo fino alle 4 e mezza e poi devo lasciare. L'altro giorno hai anche fatto parlare un mio collega prete, e ogni tanto questa figura salta fuori nei tuoi racconti. Vuol dire che proprio inutili del tutto ancora non lo siamo. Non voglio farti dei complimenti, ma io credo che tu faccia lavorare la gente di memoria, e questa è per molti mistici la facoltà più spirituale che l'uomo possiede, facoltà imprescindibile, che ci permette di avere radici ben piantate e di non perderle nel viaggio tempestoso e spesso disorientante della vita. Se si rimane attaccati anche solo ad un barlume di memoria, non ci si perde. È come un'ancora sicura, un porto in cui il mare è sempre calmo. Grazie e buon lavoro. Fra Luca, Convento dei Cappuccini, San Bernardino, Genova. Grazie a Roberto Scaltritti, a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Grazie a Luca che ha scritto questa mail. E grazie anche, e sono i miei preferiti, gli ascoltatori che mi pigliano in giro. Matteo, il tuo futuro è sul palcoscenico, credimi. Io sono un talent scout e mi sono bastati quei brevi accenni alla fontana malata di Palazzeschi per convincermi. Ecco, mi sono detto, abbiamo trovato il nuovo Ermete Zacconi. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?